voglio farmi quella lì, con il sorrisino falso. Voglio girare per le boutique, voglio strapparglielo dalla faccia. Facile pulito come il sapone, portavo il curriculum. Ora se faccio le ore piccole, per due piccole qualche tuffo. Ogni tot mi innamoro di una stronza e so che quella volta era un gioco di sguardi, quella dopo era un gioco di gambe o di cazzate come tanti. Non le frega però la fa lu, lunga si fa lu, luna si fa lu, Luca per non farsi mancare nulla. Si fa l'amica alla prima curva. Il tuo corpo mi sa dire cose e fare ricorso. Io ho un cuore solo, me lo riporti. Al posto degli occhi e due telescopi. Non vuoi una favola, vuoi un emoji. Principessina, sei la mia sissi, solo per soldi. In giro a Parigi come un Rocher, mon chéri sulla Torre Eiffel. Voglio farmi quella tipa là, con i tacchi e con la Gucci bag. Le ho chiesto che cosa fai tonight, mi ha risposto quello che fai te. Voglio farmi quella tipa là, meglio senza rima e senza far. Sì, ti preferisco senza eyeliner. Vieni su da me, balliamo un valzer. Ti ho visto in quel club chic che bevevi dry gin a fianco al tuo rich dick. Vuoi fare la rich bitch? Ti sistemi il lipstick. Mi mandi due kiss e poi sparisci. Chissà se lui sa che lo tradisci. E lo so che sei come le tue amiche snob. Vuoi solo jet privati e yacht. Vuoi solo borse di Selino, di Vuitton. Ma come no, non ti do la password del wifi. Ti do una botta e dopo vai. Mi dici scrivimi, ti dico mai, baby. Voglio farmi quella tipa là, con i tacchi e con la Gucci bag. Le ho chiesto che cosa fai tonight, mi ha risposto quello che fai te. Voglio farmi quella tipa là, meglio senza rima e senza far. Sì, ti preferisco senza eyeliner. Vieni su da me, balliamo un valzer. Voglio farmi quella tipa, farci l'amore sul tower bridge e rovinarle la vita ancora. Farmi quella tipa, farci l'amore sul tower bridge e rovinarle la vita. Voglio farmi quella tipa là,